con Alessandro Stoppoloni di Storie in Movimento per la presentazione del nuovo numero della rivista Zapruder 47, Rivolta alla carta, organizzato da Zapruder e dal Centro Documentazione Maria Baccante, Archivio Storico Viscosa, a Roma, al Parco dell'Energia ex SNIA, sabato 23 febbraio 2019. Alessandro, ben trovato. Grazie, dottore, anche a voi. Ci racconti un po' di questo nuovo numero? Ma questo è appunto l'ultimo numero di Zapruder che, come tutti gli altri numeri, ha un tema principale. In questo caso i curatori, che sono delle persone del Centro Studi Movimenti di Parma, quindi una delle realtà di movimento artistico più consolidate a livello italiano, si sono interrogati su quello che vuol dire gestire un archivio di movimento oggi. E questo è stato fatto attraverso tutta una serie di casi, soprattutto internazionali, però anche italiani. E fra i casi italiani c'era anche il nostro, quindi quello dell'archivio della fabbrica Cesa Viscosa, poi dopo SNIA, e anche di un altro archivio che abbiamo acquisito recentemente, che è quello del Centro Sociale Macchia Rossa di Magliana. E qui noi abbiamo fatto questo breve articolo che va a inserirsi in quello che è una discussione un pochino più ampia, perché lì si parla sia di aspetti gestionali, quindi di come ci si finanzia un archivio, sia di che tipo di ruolo devono avere le persone che ci lavorano, se dobbiamo rimanere sempre volontari oppure se magari riescono ad avere anche un reddito da questa loro attività. E come tutti gli altri numeri di Zapruder, questo è stato portato avanti sia dai curatori sia dalla redazione, che fa sempre un lavoro molto consistente dietro. Quanti contributi per quante pagine? Allora, le pagine sono circa 120-130, mi pare, perché adesso stiamo cambiando formato, quindi mi faccio un po' di confusione. Però la cosa importante è che Zapruder ha una prima sezione che si chiama Zoom, e lì ci sono gli articoli un po' più complessi, con ragionamento, insomma, più articolato, e poi ce n'è un'altra che si chiama Schegge, e sono degli articoli sempre sul tema di numero, grosso modo, e sono un pochino più brevi. Poi c'è tutta una parte legata alle immagini, che è quella che caratterizza Zapruder fin dall'inizio. Infatti, se voi prendete ora la rivista dal numero 1 fino al 47, trovate una carta che è molto pesante, anche abbastanza scomoda da portare in giro, che però va molto bene per le foto. Infatti tutti gli articoli sono corredati da immagini. E poi c'è sempre stata questa sezione immagini, che presenta sia una parte scritta all'inizio, che presenta appunto le immagini che si vanno a vedere, che poi dopo tutto l'apparato appunto iconografico. E c'è anche in questo numero, addirittura ci sono due articoli diversi che parlano un po' della stessa cosa, quindi archivi, un archivio di Torino, visto come era diversi anni fa e come è adesso. Sì, poi ci sono insomma altre sezioni, ce n'è, ma quella nostra, per esempio, quella per cui abbiamo fatto il nostro contributo, si chiama Luoghi, e di solito si occupa di descrivere un museo, per esempio una mostra o per esempio un archivio. In questo che è il nostro caso, abbiamo descritto l'archivio, però abbiamo descritto anche tutto quello che ci va intorno, perché adesso non possiamo riassumere brevemente quella che è stata la storia. Però intorno all'ex fabbrica di Cesa Viscosa, poi negli anni 90 è nato tutto un movimento di difesa di quello che era diventato un luogo importante della cittadinanza contro un tentativo di speculazione. Poi nello stesso tempo è uscito fuori questo lago, l'unico naturale che si trova, e quindi il nostro archivio finisce all'interno di un sistema molto più ampio, quindi col comitato di quartiere, il centro sociale Mia Riscosa, e poi appunto il lago, il parco delle energie, quello che rimane dell'ex fabbrica. Insomma, ci fa piacere metterlo all'interno di questo contesto, e quando ci hanno proposto di scrivere per la rubrica Luoghi, ci ha sembrato molto adeguato. Per chi ci ascolta, descriviamo brevemente anche l'esperienza Zapruder, di cosa si tratta. Sì, Zapruder, più precisamente Storia in Movimento, perché Storia in Movimento è questa associazione che sì, è dietro a Zapruder, poi dietro anche al Simposio, che è un incontro che si fa annualmente a luglio in Umbria, dove ci sono queste discussioni, quindi incontri sempre a tema storico, ma non solo. E poi c'è anche un'altra rivista che si chiama Zapruder World, che nasce sull'onda di Zapruder, però molti anni dopo, ed è tutta in inglese. Storia in Movimento nasce nel fine del 2000, su impulso di un certo gruppo di giovani storici, storiche, e non solo, perché c'erano anche sociologi e antropologi, diciamo militanti comunque di nella stessa area politica, che dopo il G8 di Genova pensano che è il caso di la storia da un punto di vista abbastanza diverso rispetto soprattutto a quello che era diventato maggioritario a livello accademico. Quindi l'idea di fare in questo caso una rivista che prende il nome di Zapruder un po' diversa, quindi con un taglio scientifico, però che permette una libertà che altri tipi di pubblicazione non danno. Questo diventa chiaro già dal nome, che è ripreso da Bram Zapruder, la persona che con la sua telecamerina era riuscito a filmare il momento dell'uccisione di John Fitzgerald Kennedy, il presidente americano, e quindi è riuscito a fare storie, però in un modo non convenzionale, quasi inaspettato. E quindi il nome che è stato scelto all'inizio è rimasto finora, e all'inizio molti non pensavano che potesse andare avanti per più di qualche numero, invece ormai sono sempre in sedicesimo anno, le persone sono cambiate, c'è ancora qualcuno che ha firmato il documento iniziale, il manifesto iniziale, sono ancora alcuni dei fondatori che stanno anche in redazione, però io sono entrato per esempio da un paio d'anni. E quello che io ho trovato di molto positivo è che c'è una grande collaborazione su persone che magari hanno età diverse, provenienze diverse, ed è un posto in cui invece si riesce a incontrare. E questa secondo me è stata una dei pregi maggiori di Zapruder, almeno per quella che è stata la mia esperienza fino adesso. Alessandro, come sarà articolata la giornata di sabato 23? Noi abbiamo invitato tutta una serie di persone, per esempio Leonardo Musci è un archivista italiano. È stato insieme a Marco Crispini, sia uno dei primi firmatari del manifesto di Zapruder, quello che poi diventerà Zapruder, sia l'autore, nei primi anni 2000, di una guida alle fonti per lo studio della storia dei movimenti, che insomma all'epoca era una cosa abbastanza all'avanguardia, adesso ovviamente sono passati un po' di anni e andrebbe aggiornata, però l'abbiamo invitato anche perché insomma è una persona che è vicino all'archivio della linea Viscosa. E ci può dare una mano a capire bene ora che cosa vuol dire lavorare con questo genere di strutture e all'interno di questo genere di strutture. E tra l'altro, sia Marco Crispini sia Leonardo Musci hanno contribuito al numero, sono stati intervistati da Ilaria Lasata, che è un'altra delle curatrici, e quindi insomma ci sembrava particolarmente indicato invitarli. Poi c'era Luciano Villani, che è uno storico qui di Roma, lui ha già curato un nuovo Zapruder qualche tempo fa sulle radio. Numero 34, quindi ormai si parla di 4 anni fa circa, forse anche di più. E Luciano adesso sta frequentando l'archivio perché sta facendo la ricerca. E poi ci è interessato la sua esperienza perché una delle cose che faremo venerdì, sabato, scusate, è presentare la storia del recupero di questo archivio del Centro Sociale Macchia Rossa, che è una storia un po' travagliata, è un archivio che ha visto confluire anche un altro fondo, che era quello di un altro centro sociale qua di Roma, lì nel centro sociale, che poi è stato però chiuso e sequestrato un paio di anni fa in seguito a una manifestazione diciamo, antifascista, che era un presidio in risposta a una manifestazione di Corso Nuovo, che è stata tutta una situazione abbastanza complicata da spiegare adesso, che è culminata con la chiusura di una parte del centro sociale dove era conservato l'archivio. Poi tramite tutta una mobilitazione abbastanza lunga che ha coinvolto anche Zapruder perché è stata una delle realtà che si è impegnata in prima persona per far sì che l'archivio fosse in un certo senso liberato da quella che era diventata una specie di gabbia. Si è riusciti a far uscire l'archivio da lì, l'abbiamo portato appunto nel nostro centro di documentazione. E adesso noi ci stiamo un po' lavorando, poi chiaro uno dei limiti di questi archivi di movimento è che non sempre si hanno le risorse e la forza di portare avanti dei lavori così impegnativi. Quindi noi ci stiamo un po' lavorando, perché intanto volevamo fare il punto della situazione sia con le persone che ci hanno consentito di prendere l'archivio, quindi con i militanti del Centro Sociale di Magliana, sia con chi lavora nel settore, sia da un punto di vista proprio da professionista, sia con tutte le strutture militanti con personalità e professionalità diverse. E quindi questo sarà uno dei cardini dell'incontro, anche perché Luciano Villani e anche Emanuela Fiorletta, che è la persona che coordinerà l'incontro, hanno avuto un ruolo nel recupero di questo archivio molto prima che ci arrivassimo noi. Quindi la nostra idea è presentare l'archivio di Magliana, far capire che intorno a questo archivio ci stanno una serie di problematiche comuni agli archivi di questo tipo, cioè, per esempio il rischio di dispersione, perché gli archivi nel momento in cui non sono gestiti da un'istituzione solida, strutturata, hanno un altro che buttati semplicemente. E quindi dire quante volte siete schiavi di perdere questi documenti può essere già un punto di partenza per discutere poi del numero, perché tutte le esperienze che vengono descritte all'interno del numero di partono da un dato concreto, e visto che anche noi ne abbiamo proprio uno qui sotto le mani, sotto gli occhi, ci pareva interessante partire da lì e poi strutturare la discussione. Poi insomma speriamo anche che ci sia una partecipazione da parte del pubblico, perché abbiamo invitato per esempio Salvatore Corasaniti, che è sia nella redazione della Bruder da quest'anno, sia membro dell'archivio dei movimenti di Roma, che si sta nascendo in questi mesi, e dalla sede a Portignattara, e quindi ci sarà interessante confrontarci sia con lui sia con altre persone che fanno parte di questo collettivo. Insomma, adesso non li conosciamo, però ci riusciamo a fare una discussione un po' più ampia e plurale tutti insieme, perché insomma sarebbe una cosa auspicabile. Allora ricordiamo l'appuntamento per la presentazione del nuovo numero della rivista Zapruder, numero 47, rivolta alla carta, a Roma, al Parco delle Energie, ex SNIA Viscosa, sabato 23 febbraio 2019. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Stoppoloni di Storia in Movimento. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. A presto, ciao.